Capitolo 97. Teseo e Medea. Giunto in Attica, presso le rive del fiume Cefiso, Teseo fu accolto dai figli di Fitalo, che lo purificarono dal sangue da lui versato, e in specie dal sangue di Sini, che gli era parente per parte di madre. L'altare di Zeus Benigno sorge ancora sulla riva del fiume, là, dove ebbe luogo la cerimonia. In seguito i Fitalidi accolsero Teseo come loro ospite, e quella fu la prima casa che lo ospitò da quando egli aveva lasciato Trezene. Indossando una lunga veste che gli sfiorava i piedi e con i capelli ben intrecciati, Teseo entrò in Atene l'ottavo giorno del mese Cronio, ora chiamato Ecatombeone. Mentre passava dinanzi al tempio quasi ultimato di Apollo, un gruppo di muratori lo scambiò per una fanciulla e gli chiese con tono impertinente perché se ne andasse in giro senza essere accompagnato. Disdegnando di rispondere, Teseo staccò un bue dal carro dei muratori e lo lanciò in aria, ben più in alto del tetto del tempio. Ora, mentre Teseo cresceva a Trezene, Egeo aveva mantenuto la promessa fatta a Medea, ospitandola quando essa fuggì da Corinto sul famoso cocchio trainato da serpenti alati. In seguito la sposò, convinto che le sue arti magiche gli avrebbero permesso di generare un erede. Infatti egli non sapeva ancora che Etra aveva dato alla luce Teseo. Medea tuttavia riconobbe Teseo non appena egli giunse in città e ne divenne gelosa per via di Medo, il figlio che aveva avuto da Egeo e che si supponeva gli sarebbe succeduto sul trono. Essa dunque fece credere a Egeo che Teseo fosse una spia o un assassino e lo indusse a invitarlo alla festa nel tempio del Delfino. Egeo, che si serviva del tempio come della propria residenza, si preparò a offrire a Teseo una coppa di vino affatturato da Medea. Questo vino conteneva dell'aconito, un veleno che Medea aveva portato da Acherusia in Bitinia, dove il fiore mortale dell'aconito era sbocciato dalla bava di Cerbero furibondo mentre Eracle lo trascinava fuori dal Tartaro. L'aconito è così chiamato perché fiorisce sulla nuda roccia. Taluni dicono che quando il bue arrostito fu servito nel tempio del Delfino, Teseo estrasse la spada per trinciare la carne e così attrasse l'attenzione di suo padre. Ma secondo altri, egli si era già portato la coppa alle labbra senza sospettare di nulla quando Egeo notò i serpenti retteidi incisi sull'elsa eburnea della spada e rovesciò il veleno per terra, e ancora si mostra, sul nudo impiantito del tempio, il luogo dove la coppa cadde. Seguirono i più grandi festeggiamenti che Atene avesse mai visto. Egeo abbracciò Teseo e lo riconobbe come figlio dinanzi al popolo radunato. Fuochi furono accesi dinanzi a ogni altare e i simulacri degli dei si coprirono di offerte votive. Ecatombi di buoi inghirlandati di fiori vennero sacrificate nel palazzo e nella città, i nobili e il popolo esultarono assieme e cantarono le gloriose imprese di Teseo, già più numerose degli anni della sua vita. Animato da propositi di vendetta, Teseo inseguì allora Medea. Essa però riuscì a sfuggirgli avvolgendo il proprio corpo in una magica nube e si allontanò da Atene con il giovane Medo e una scorta generosamente concessale da Egeo. Altri dicono che Medea partì in compagnia di Polisseno, il figlio avuto da Giasone. Palla dei suoi 50 figli, i quali da tempo sostenevano che Egeo non era un vero eretteide né poteva avanzare pretese al trono, si ribellarono apertamente quando videro le loro speranze di governare in Atene minacciate da un pezzente straniero. Essi divisero le loro forze. Pallade, con 25 dei suoi figli, marciò sulla città partendo da Sfetto, mentre gli altri 25 prepararono un'imboscata a Gargetto. Ma Teseo, informato da un araldo chiamato Leo, della tribù degli Agni, balzò sui guerrieri in agguato e li sterminò. Pallade sgomento invocò la pace. I Pallantidi non perdonarono mai il tradimento di Leo e ancora oggi non sposano membri della tribù degli Agni né permettono che gli araldi diano inizio a un proclama con le parole «Acuete Leoi, udite o cittadini» per via dell'assonanza tra Leoi e il nome Leo. Codesto Leo non va confuso con l'altro Leo, figlio di Orfeo e antenato dei Leontidi ateniesi. Un giorno, in tempo di peste e carestie, Leo obbedì agli ordini dell'oracolo delfico e sacrificò le sue figliole Teope, Prassitea ed Eubula per salvare la città. gli ateniesi innalzarono il Leocorio in loro onore. Questo romanzo artificioso, con il suo denouement tipicamente teatrale, che culmina nella scena della coppa di veleno, ricorda il mito di Ione. L'episodio del bue lanciato in aria è un puro e semplice plagio delle imprese di Eracle. La domanda posta a Teseo dai muratori è anacronistica, perché nell'epoca eroica le fanciulle andavano in giro da sole. Né Teseo poteva essere scambiato per una donna se aveva già consacrato i suoi capelli ad Apollo divenendo un curete. Tuttavia i punti deboli della leggenda ci inducono a pensare che essa fosse stata tratta da un'antica raffigurazione illustrante i sacrifici compiuti il giorno della consacrazione di un tempio appena ultimato, poiché gli uomini sul tetto sono senza dubbio dei muratori. È probabile che il personaggio incaricato di staccare i buoi dal carro sia una sacerdotessa e non Teseo, e il tempio decorato da delfini simbolici fu creduto un tempio di Apollo, mentre in origine il delfino era sacro alla dea della luna. Quanto al bue lanciato in aria, si tratta della divinità che assiste dal cielo al sacrificio in suo onore, o la bianca vacca lunare o il bianco toro di Posidone, che divideva con Atena un tempio sull'Acropoli al quale, come dio marino, erano sacri i delfini. I sacerdoti di Apollo, e Plutarco non meno degli altri, furono sempre smaniosi di accrescere l'autorità del loro dio a scapito degli altri dei. Un'altra scena da cui fu tratta la leggenda della coppa avvelenata, l'aconito era un ben noto paralizzante, mostrava probabilmente un sacerdote o una sacerdotessa nell'atto di libare delle ombre degli uomini sacrificati mentre si pongono le fondamenta del tempio. Persefone e Cerbero stanno a osservare. Plutarco dice che Egeo viveva nel tempio del delfino anziché in una casa privata, il che è esatto poiché, come re sacro, egli doveva avere un appartamento nel palazzo della regina. La cacciata di Medea prima da Corinto e poi da Atene si riferisce al fatto che gli Elleni soppressero il culto della dea Terra. Infatti dal cocchio trainato da serpenti si deduce che Medea era una Demetra corinzia. Anche la vittoria di Teseo sui Pallantidi si riferisce alla soppressione dell'antico culto di Atena col suo collegio di 50 sacerdotesse. Pallas significa infatti sia ragazzo sia fanciulla. Un'altra versione del medesimo episodio si trova nella leggenda di Leo, che sacrifica le sue tre figlie, cioè la dea in triade. La fanciulla è Teope, volto divino, la nuova luna. La ninfa è Prassitea, dea attiva, la regina Ape. La madre di Cecrope aveva lo stesso nome di Eubea. La vegliarda è Eubula, buon consiglio, la dea oracolare che Eubuleo, il porcaro, serviva a Eleusi. I Pallantidi e gli Agni non si sposavano tra loro forse in ricordo di un'antica usanza esogamica, con i suoi complessi sistemi di matrimonio di gruppo tra le varie fratrie. Ogni fratria o subfratria comprendeva molte tribù, in tal caso i Pallantidi e gli Agni appartenevano senza dubbio alla medesima subfratria, poiché le nozze erano permesse soltanto tra membri di subfratrie diverse. La tribù dei Pallantidi aveva probabilmente come emblema una capra e gli Agni avevano un agnello, i Leontidi un leone e gli Eretteidi un serpente. Nella mitologia attica troviamo allusioni a molte altre tribù totemiche, come quelle del corvo, dell'usignolo, dell'upupa, dell'orso e della civetta. A giudicare dai miti di Teseo e di Eracle, sia la grande sacerdotessa di Atena ad Atene, sia la grande sacerdotessa di Era ad Argo, appartenevano alla tribù del leone e i re sacri entravano a far parte della stessa tribù per adozione. L'anello d'oro trovato a Tirinto mostra quattro uomini leoni che offrono libagioni a una dea seduta, che deve essere Era poiché un cuculo sta appollaiato sul suo trono. Benché non vi fossero leoni in Creta, essi figurano tra gli animali sacri alla dea. Atena non era associata col cuculo, ma aveva molte altre epifanie di uccello, la cui origine era certamente totemica. In Omero essa ci appare come aquila marina e rondine, accanto ad Apollo come avvoltoio e accanto a Era come colomba. Su un piccolo vaso ateniese del 500 avanti Cristo essa ci appare come allodola e Atena Smergo aveva un tempio presso Megara. Ma la sua principale epifania era la saggia civetta. alla tribù della civetta spettò di celebrare i riti della dea fino all'epoca classica. Gli iniziati travestiti da civetta dovevano catturare i loro uccelli totemici in una complicata cerimonia. L'episodio della cue Teleoi, narrato da Plutarco, è abbastanza plausibile. Accadeva spesso nelle religioni primitive che fosse proibito pronunciare delle parole simili al nome di una persona, di un oggetto o di un animale considerato di malaugurio, specialmente se tali parole ricordavano il nome di un parente morto, sia pure di morte naturale. L'episodio dei Pallantidi che negano la legittima discendenza di Egeo e di Teseo da Eretteo rispecchia forse una protesta degli ateniesi del VI secolo contro gli immigrati butadi, che diedero nuovo smalto alla leggenda di Teseo e usurparono le prerogative degli indigeni sacerdoti eretteidi.